Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Gentili ascoltatori, dalla Sura del Limbo ascolteremo ora i versetti 180, 181 e 182 dalla voce del fratello Burumand. Seguirà la traduzione in lingua italiana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث صدق الله العلي العظيم. E ad Allah che appartengono i nomi più eccelsi. Invocatelo con quelli ed allontanatevi da coloro che profanano i nomi suoi. Presto saranno castigati per quello che hanno fatto. Tra le nostre creature ci sono gruppi che guidano alla verità e alla giustizia, ma coloro che credono menzogna, i nostri segni li faremo sprofondare sempre più in basso, senza che se ne rendano conto. Radio Italia IRIB, una finestra sul mondo. Gentili ascoltatori, vi informiamo che i programmi in lingua italiana della Repubblica Islamica dell'Iran vengono trasmessi in onde corte giornalmente dalle 6.30 alle 7.30 ora di Greenwich sulle seguenti frequenze. 15.480 kHz pari a 19 metri e 17.660 kHz pari a 16 metri. La replica di questa trasmissione va in onda il pomeriggio dalle 12 alle 13 ore di Greenwich sul satellite Intelsat 902 e può essere ascoltato anche attraverso il sito internet italian.irib.ir, come del resto tutte le altre trasmissioni. La replica per Teheran su FM va in onda tutti i giorni dalle 14 alle 15 locali su 99,5 MHz. Infine, il programma serale va in onda su onde corte dalle 19.30 alle 20 di Greenwich sulle seguenti frequenze: 7.315 kHz pari a 41 metri e 9.755 kHz pari a 31 metri. Questo programma è stato ideato per l'Italia e per l'Europa centro-occidentale. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, buongiorno gentili ascoltatori, vi parla Leila dalla voce della Repubblica Islamica dell'Iran, programmi in lingua italiana. Insieme al mio collega Davud vi presenteremo la programmazione di oggi giovedì 9 maggio 2013 che prevede l'apertura e il notiziario accompagnato da due brevi note di commento. I nostri programmi seguiranno con la rassegna stampa iraniana, un'altra puntata di Il Persiano per voi e per finire noi ed i radioascoltatori. Ma ora diamo spazio alle notizie, non mancate. Alto là di Putin a Netanyahu, al prossimo attacco di Israele alla Siria risponderà la Russia. Siria ha deputato la risposta alle aggressioni di Israele e vicina. Esercito elettronico siriano mette in tilt sistema amministrativo informatico SCADA di Israele. Iran elezioni, 144 iscritti in due giorni. Palestina, forze israeliane arrestano giovani fuori moschea Al-Aqsa di Gerusalemme. Salve gentili ascoltatori, in primo piano la questione della Siria, serio alto là del presidente russo Vladimir Putin al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo quanto riferisce il sito Debka File, vicino al Mossad israeliano, il presidente Putin avrebbe telefonato di persona a Netanyahu per ricordargli che nel caso della ripetizione di un'aggressione militare alla Siria, la Russia sarà a fianco della Siria. Le agenzie di stampa internazionali avevano riferito del colloquio telefonico tra i due leaders lunedì scorso, ma Debka File spiega che Putin avrebbe addirittura minacciato di rispondere agli attacchi di Israele nel caso di un'azione futura ai danni della Siria. Putin avrebbe consigliato a Netanyahu di prendere sul serio il suo monito, dato che la Russia non intende permettere ad alcun paese di rovesciare il governo siriano. Un deputato del Parlamento siriano ha dichiarato che la risposta della Siria agli attacchi ed alle aggressioni di Israele non si farà aspettare ancora per molto. Intervistato dall'agenzia iraniana Fars News, il deputato siriano Muaffaq al-Habashi ha spiegato che Israele è da anni il nemico numero uno della Siria e che il suo paese saprà riscattare le vittime dell'aggressione al centro ricerche di Jamraya vicino Damasco. Il parlamentare ha affermato: io prevedo che la risposta a questa aggressione sia ferma e dolorosa, ma starà ai leaders della Siria decidere come e quando, perché questo non è stato solo un attacco contro il governo siriano, ma un affronto a tutto il popolo della Siria. L'esercito elettronico della Siria, SEA, ha dichiarato di aver messo fuori uso il sistema informatico israeliano SCADA a Haifa utilizzato per la gestione di internet, ma anche di impianti come fabbriche, acqua e corrente pubblica. Secondo il comunicato della SEA, l'attacco informatico è avvenuto mercoledì in risposta all'aggressione di domenica scorsa dei caccia israeliani contro un centro di ricerche a Damasco. La SEA ha comunque informato che gli attacchi informatici saranno di misura ridotta per non causare vittime civili all'interno di Israele. Una notizia dall'Iran: nelle giornate di martedì e mercoledì, ovvero nei primi due giorni in cui le iscrizioni per la candidatura alla presidenza dell'Iran sono state aperte, 144 persone si sono registrate. Secondo quanto riferito dall'agenzia Fars, lo ha spiegato Hassan Ali Nouri, nel primo giorno 75 persone si sono iscritte, mentre nel secondo giorno gli iscritti sono 69, ha detto ieri sera, spiegando che tra i 69 iscritti di mercoledì 67 sono uomini e 2 sono donne. I candidati potranno iscriversi fino alla fine della giornata di sabato, dopodiché il Consiglio dei Guardiani dell'Iran inizierà ad esaminare l'idoneità degli iscritti per poi pubblicare la lista finale dei candidati. La campagna elettorale dei candidati inizierà il 24 maggio e durerà per 20 giorni fino alla fine della giornata del 13 giugno. 24 ore dopo, ovvero il 24 giugno, si terranno le elezioni presidenziali. Passiamo alla Palestina. I militari del regime israeliano hanno picchiato i giovani palestinesi riunitisi davanti alla moschea Al-Aqsa di Gerusalemme dopo che un gruppo di coloni ebrei estremisti si era introdotto nel luogo sacro islamico. Secondo il corrispondente di Press TV, le forze israeliane mercoledì hanno aggredito i palestinesi accorsi alla moschea Al-Aqsa a Gerusalemme Est, picchiando la gente e arrestando decine di giovani. Le truppe di occupazione hanno ferito anche numerosi giornalisti presenti sul luogo. Sempre mercoledì, le truppe israeliane avevano arrestato il Gran Mufti di Al-Quds o Gerusalemme, Mohammed Hussein. E passiamo in Italia. Il segretario di Stato USA John Kerry, giunto ieri nella capitale italiana, incontrerà oggi alle 12.30 il presidente del Consiglio Enrico Letta ed anche il ministro degli esteri Emma Bonino. Secondo quanto riferiscono i media italiani, Kerry, che si reca a Roma per la seconda volta in due mesi, parla di Siria e di ripresa di un cosiddetto negoziato israelo-palestinese a Roma. Sulla Siria, dopo il bombardamento aereo di Israele di qualche giorno fa, Washington pare interessata ad incrementare le azioni militari contro il governo siriano e, se non direttamente, almeno per procura. Sul versante medio orientale, Kerry ha incontrato il responsabile israeliano per i negoziati Tzipi Livni, con cui ha discusso probabilmente le condizioni con cui rilanciare la carta del negoziato con i palestinesi, in modo che Israele, isolato internazionalmente, non possa trarre il massimo vantaggio. Si spiega in tal modo probabilmente la tale assenza di un rappresentante palestinese. La Livni non ha fatto mistero della questione e dopo l'incontro con Kerry ha ricordato: abbiamo avuto con il segretario Kerry una buona discussione. L'idea è rilanciare il negoziato tra israeliani e palestinesi e noi crediamo che il raggiungimento di un accordo sia interessante per Israele. 2 anni fa i negoziati erano stati congelati dal premier Netanyahu con l'avvio frenetico della costruzione di insediamenti illegali in terre palestinesi. A ciò era seguita una netta condanna internazionale, ribadita pure dall'ONU, che in realtà non si è più placata. E proprio di ieri la notizia di un'altra campagna di boicottaggio contro Israele, che ha portato persino il famoso scienziato Stephen Hawking a non recarsi nei territori. Ora Kerry probabilmente ha la missione di fare qualcosa per l'alleato di Israele, anche innescando un negoziato con il sempre disponibile Abu Mazen. Passiamo in Italia. La Corte di Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado contro Silvio Berlusconi, il leader del PDL, è stato riconosciuto colpevole di frode fiscale nella compravendita di diritti TV. Secondo la sentenza sul caso Mediaset, che vede Berlusconi dominus indiscusso di una notevolissima evasione, è come un individuo con naturale capacità a delinquere. Berlusconi viene condannato a 4 anni di reclusione, 3 coperti da indulto, ma soprattutto a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici e dalle cariche societarie per 3. In caso di conferma di queste pene accessorie alla Cassazione, Berlusconi dovrebbe lasciare la carica di parlamentare e la sua carriera politica potrebbe essere considerata ormai finita. Saranno circa 73,4 milioni di giovani senza lavoro nel 2013, è quanto emerge dal rapporto dell'International Labour Organization sulle tendenze globali dell'occupazione giovanile 2013. Il dato spiega che l'Organizzazione Internazionale dell'ONU si avvicina molto al picco raggiunto in piena crisi economica nel 2009. Si tratta di un aumento di 3,5 milioni tra il 2007 e il 2013. Nonostante alcune differenze a livello regionale, spiega Lillo, il tasso di disoccupazione giovanile a livello globale continua a crescere e dovrebbe raggiungere il 12,8% entro il 2018. In Italia un giovane su quattro è un NEET, not in education, employment or training, cioè non studia, non lavora e non segue nessuna formazione personale. È la quota allarmante che emerge sulla situazione dei giovani nel bel paese dall'ultimo rapporto dell'INO, l'agenzia ONU per il lavoro. Il dato segna di fatto un passo indietro di ben 10 anni dell'Italia. Nel 2003 i giovani NEET italiani erano il 18,6%, ma nel 2010 sono saliti al 23%. Un dato di tale gravità l'ultima volta si era registrato nel 2000. Il diplomatico brasiliano Roberto Azevedo, 55 anni, è stato scelto come nuovo numero uno del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sarà lui che da tempo rappresenta il Brasile all'interno dell'organizzazione a succedere al francese Pascal Lamy, che se ne andrà il prossimo 31 agosto. Azevedo batte in volata il messicano Erminio Blanco, ex ministro del commercio, sponsorizzato dagli USA. Il processo di selezione che ha portato alla scelta di Azevedo avrebbe dovuto rimanere segreto, ma il governo brasiliano conferma che Azevedo ha vinto la gara con un ampio margine di vantaggio e sarà il primo presidente sudamericano della storia del WTO. A candidarlo, a sostenerlo, sono stati i BRICS, i paesi emergenti. Per il Brasile, si legge in un comunicato del presidente brasiliano Dilma Rousseff, è chiaro che, vista la sua esperienza, sarà in grado di guidare l'organizzazione verso un ordine economico globale più equo e dinamico. Non è una vittoria del Brasile, aggiunge, ma del WTO. I negoziati di Doha per la liberalizzazione dei commerci mondiali, avviati nel 2001, si sono bloccati nel 2011, costringendo molti paesi, inclusi gli USA, ad agire l'ostacolo con la promozione di intese regionali e bilaterali. Inoltre, il negoziato ha preso la strada di un pacchetto più ristretto e meno ambizioso di riforme. La regina d'Inghilterra, Elisabetta II, ha minacciato l'Argentina e la Spagna e ha ribadito che Londra è determinata a difendere il controllo delle zone contese con questi paesi. Secondo l'IRIB, la regina ha mandato un messaggio infuocato a Spagna e Argentina. Londra occupa illegalmente sia le isole Malvinas, di proprietà argentina, che lo stretto di Gibilterra, di proprietà della Spagna. Gli inglesi che hanno portato in queste zone i loro cittadini ora ritengono che debbano essere gli abitanti di queste località, che per forza di cose sono inglesi, a dover decidere sulla propria appartenenza o meno all'Inghilterra. Nel suo discorso però Elisabetta II ha promesso massima attenzione alle questioni di quelli che lei ha denominato overseas territories, terre oltremare, garantendo agli abitanti delle Falkland e a quelli di Gibilterra il diritto di decidere per il proprio futuro. Entrambi i territori sono zone occupate secondo le Nazioni Unite, ma finora gli sforzi di Argentina e Spagna non sono serviti per liberarle. È tutto per il notiziario di oggi, grazie per averci seguito, vi aspettiamo con i commenti. Le mani invisibili del potere. Il primo commento di oggi è tratto dal quotidiano italiano Il Manifesto e firmato da Manlio Di Nucci. I misteri della Repubblica che Andreotti si è portato nella tomba non sono così misteriosi. Basta leggere il libro La Repubblica delle stragi impunite del magistrato Ferdinando Imposimato, oggi presidente onorario della Corte Suprema di Cassazione. Resta da vedere se quella dei misteri sia una pagina ormai chiusa della storia italiana. Imposimato, in base a documenti, mette sul banco degli imputati il gruppo Bilderberg, nato nel 1954 per iniziativa di eminenti cittadini statunitensi ed europei, esso ha svolto un ruolo fondamentale nelle operazioni segrete in Europa durante e dopo la Guerra Fredda. Il gruppo Bilderberg, conclude il magistrato, è uno dei responsabili della strategia della tensione e quindi anche delle stragi, a partire da quella di Piazza Fontana nel 69, di concerto con la CIA e i servizi segreti italiani, con Gladio e Stay Behind e con la P2 e le logge massoniche USA nelle basi NATO, con i gruppi neofascisti e le gerarchie vaticane. In questo prestigioso club è stato ammesso Mario Monti, che 5 mesi dopo aver partecipato al meeting Bilderberg del giugno 2011 è stato nominato senatore a vita dal Presidente della Repubblica e incaricato di formare il governo. Nello stesso club esclusivo che ha la regola del silenzio, gli atti degli incontri sono segreti, è stato ammesso Enrico Letta. Nel giugno 2012, dopo aver partecipato al meeting Bilderberg, ha confermato che la discussione era a porte chiuse e che all'incontro c'erano rappresentanti dell'opposizione siriana e russa. per concordare che cosa è facilmente immaginabile. Monti e Letta sono stati chiamati anche nella trilaterale alla commissione creata nel 73 da Rockefeller e Brzezinski, che riunisce esperti leader del settore privato di Nord America, Europa e Asia su questioni di interesse globale. Riunisce cioè le più potenti oligarchie economiche e finanziarie che assieme a servizi segreti e capi militari concordano le strategie su scala globale, le grandi operazioni speculative per attaccare monete ed economie nazionali, le campagne mediatiche per demonizzare i nemici, le guerre aperte e segrete per disgregare interi paesi e impadronirsi delle loro risorse. Non a caso Mario Monti, consulente del gruppo bancario Goldman Sachs, uno dei maggiori artefici della crisi finanziaria che dagli USA ha investito l'Europa, è stato presidente europeo della trilaterale. Ne fa parte anche Marta Dassù, prima consigliere del premier D'Alema durante la guerra della Jugoslavia, poi viceministro degli esteri nei governi Monti e Letta, attiva nel gruppo intergovernativo Amici della Siria che arma i ribelli. Quelli che, ha appurato la commissione ONU di Carla Del Ponte, hanno usato anche armi chimiche. Enrico Letta ha detto alla Camera che il suo è il linguaggio sovversivo della verità. Il termine sovversivo in realtà è più appropriato, senza virgolette, per definire quanto sta accadendo alla democrazia italiana. Nuova colonia Betlemme è circondata. Mentre si rincorrono voci e smentite su un fantomatico congelamento delle gare d'appalto per la costruzione di nuove colonie in Cisgiordania nei territori occupati, come spesso accade, a parlare sono i fatti concreti. Lunedì l'esercito israeliano ha emesso un ordine militare con la quale consegna ai coloni dell'insediamento di Gush Etzion, uno dei più imponenti nell'area intorno a Betlemme, una vecchia base militare abbandonata nel villaggio palestinese di Beit Sahur. Oltre 1.000 ettari di terreno per la creazione di nuovo avamposto. La base di epoca britannica, poi passata in mano giordana ed infine israeliana, era stata abbandonata e parzialmente demolita nel 2006 perché non considerata più essenziale dal punto di vista strategico. Importante fu invece durante la seconda intifada, quando fu teatro di duri scontri tra l'esercito israeliano e i gruppi armati palestinesi. Subito dopo l'esercito restituì l'area intorno alla base al comune di Beit Sahur, che ha trasformato la zona chiamata in arabo Hosh Agrab, in ebraico Shdema, in luogo di ritrovo pubblico, campi sportivi, un ristorante ed un parco per picnic e barbecue, a pochi metri dalla vecchia base militare. Dal 2010 l'associazione israeliana Women in Green ha iniziato a fare pressioni sulle autorità israeliane perché consegnassero le base ai coloni nell'obiettivo di avviare la costruzione di un nuovo insediamento di un certo centro educativo. Richiesta soddisfatta lunedì. I coloni potranno costruire 4 edifici residenziali e un centro educativo e hanno già cominciato a portare le prime case mobili. La costruzione del nuovo insediamento a nord-est di Betlemme finirebbe per chiudere completamente la città all'interno di un anello di colonie senza alcuna interruzione. Il blocco di insediamenti Gush Etzion, Gilo, Har Gilo e Frat hanno completamente separato Betlemme da Gerusalemme, in mezzo il muro di separazione. Questi fatti molto più concreti ed efficaci di tante parole, come quelle presunte o meno del premier Netanyahu, che avrebbe deciso, su pressione del segretario di Stato USA Kerry, di interrompere per un tempo imprecisato nuove gare d'appalto per la costruzione in Cisgiordania, ovvero stop a nuovi progetti ma nessun congelamento di quelli già avviati o approvati. Secondo l'associazione israeliana Peace Now, il premier avrebbe preso una simile decisione non confermata per evitare di essere accusato da Washington di essere il principale responsabile della mancata ripresa del negoziato. Negoziato che, se dovesse essere ravviato, avrebbe come base di partenza la realtà sul terreno, come le colonie, innegabile e difficilmente removibile realtà. Qui Teheran, voce della Repubblica Islamica dell'Iran, e come tutti i giorni, tranne il venerdì, Suhail ci presenta la rassegna stampa dei quotidiani iraniani di oggi. Salve cari amici, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, giovedì 9 maggio 2013. Oggi sulla prima pagina dei giornali iraniani le affermazioni della guida suprema iraniana, insomma, Ayatollah Khamenei, il leader proprio all'inizio dell'anno iraniano, il 21 marzo, aveva definito, nominato, meglio dire, quest'anno l'anno di un sforzo epico nel campo della politica e dell'economia. Appunto per quanto riguarda la presenza, la partecipazione del popolo, della gente sulla scena politica del paese, una delle priorità assolute del sistema della Repubblica Islamica dell'Iran, insomma Ayatollah Khamenei ha sempre chiesto proprio agli iraniani di essere presenti nelle decisioni che riguardano il futuro del paese. Appunto, siamo proprio vicini alla vigilia delle presidenziali, delle tredicesime elezioni presidenziali in Iran. Insomma, Ayatollah Khamenei in varie occasioni ha chiesto alla gente di essere presente alle urne, una massiccia partecipazione popolare alle urne per decidere il futuro capo di Stato del governo iraniano. Anche ieri, durante l'incontro con un gruppo di insegnanti, il leader ha ribadito la necessità di una partecipazione più attiva da parte del popolo proprio alle presidenziali del prossimo giugno. Ma sulla scena, sulla pagina estera, il giornale che intitola lo sciopero degli ospedali in Spagna contro la politica, il piano di austerity del governo di Madrid. E poi il ministro degli esteri iraniano, Ali Akbar Salehi, dopo aver incontrato Bashar Assad a Damasco, ha detto che l'esercito siriano ha conquistato vittorie importanti sul campo contro i ribelli e la crisi è ormai nella fase conclusiva. Tutto ciò dice che a vincere questa battaglia sarà il governo e il popolo siriano. Dall'altra parte l'agenzia di stampa tedesca dice che le elezioni politiche in Iran non potrà, chiunque sarà il presidente, non potrà cambiare la politica estera iraniana, soprattutto per quanto riguarda il programma nucleare e le relazioni con gli Stati Uniti. Passiamo al giornale Resalat, sulla prima pagina, accordo tra gli Stati Uniti e la Russia per trovare una soluzione politica alla crisi siriana, incontro tra John Kerry, segretario di Stato americano, e Vladimir Putin in Cremlino. I due leader hanno, le due autorità hanno trovato accordo per formare un gruppo di contatto e anche per svolgere una conferenza al fine di trovare una soluzione al conflitto in Siria. E poi il famosissimo fisico britannico Stephen Hawking ha deciso di non partecipare ad una conferenza scientifica in programma a Gerusalemme, occupata in segno di protesta alle politiche di Israele. Quindi anche Hawking ha aderito alla campagna del boicottaggio scientifico promossa da molte università internazionali nei confronti dell'entità sionista. Giornale Hamshahri titola il ritiro dei combattenti curdi del PKK dalla Turchia, un evento storico senza precedenti che succede in Turchia e molto probabilmente potrà dare vita ad una soluzione definitiva dei curdi in Turchia. Ecco, arriviamo al giornale Jom e Jam. Il Parlamento della Giordania ha approvato una bozza di legge per espellere l'ambasciatore israeliano da Amman in segno di protesta all'assalto degli coloni estremisti alla moschia di Al-Aqsa in Gerusalemme, e quindi il governo giordano ha richiamato proprio il suo ambasciatore da Tel Aviv. Passiamo al giornale Iran. Esercito pakistano sarà schierato, i soldati pakistani schierati proprio per le strade per affrontare l'ondata di attentati che in questi giorni hanno colpito il Pakistan alla vigilia delle elezioni politiche in questo paese. Il giornale Eftekar dice titolare del Kirghizistan, proprio una manifestazione da parte del popolo kirghizo che hanno chiesto il ritiro dei militari americani da questa repubblica ex sovietica. E poi in Nepal la polizia è intervenuta per proprio reprimere i dimostranti che erano scesi in strada per proprio protestare contro la diffusa corruzione in questo paese. Ecco, questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di oggi. Grazie per l'attenzione. A risentirci. Cari amici, ed ora vanno in onda prima il persiano per voi e poi la rubrica Noi e di Radio Ascoltatori. Buon ascolto. Il persiano per voi. Salam dostane shanavande, salve amici ascoltatori. Siamo con voi con un'altra puntata della rubrica Il persiano per voi, che è dedicata all'apprendimento della lingua farsi. Restate con noi. Teheran, la capitale dell'Iran, offre molte attrazioni eccezionali e luoghi interessanti da visitare. Uno di questi bei luoghi da vedere è il parco Jamshidieh, che si trova nel nord della città. Oggi Paolo e Ramin ci sono andati per fare una passeggiata. Loro, dopo aver camminato un po' nel parco, si siedono su una panchina e da lì sopra si può vedere tutta Teheran. Una metropoli moderna e viva, che è piena di luci, autostrade, alti palazzi e grattacieli. Tira un bel vento d'autunno. I due amici, godendo del bel panorama della città, cominciano a fare una chiacchierata sulla capitale iraniana. Prima di ascoltare la loro conversazione, vi invitiamo a scrivere il lessico nuovo di questa puntata. Noi vediamo. Ma mi binim. Bello. Qashang. Panorama, paesaggio. Manzare. Edificio. Sakhtemon. Grattacielo. Borg. Moderno. Moderne. Casa. Khane. Piano. Tabaqe. Vendette. U furucht. Ora, amici, vi invitiamo ad ascoltare la conversazione dei due amici. Az in bala mitunim Tehran ra bebinim. Kheyli qashange.

من آن خانه قدیمی را بسیار دوست داشتم. من و برادرانم در حیاط بازی می کردیم. برج های تهران خیلی مدرن و زیبا هستند. درسته، اما هنوز هم خانه های قدیمی در تهران وجود دارند. A Teheran ci sono molti alti grattacieli, i quali si trovano maggiormente a nord di Teheran, che danno alla città un aspetto moderno. Però ancora nel sud e al centro della città ci sono case antiche e di un solo piano. Nel cortile di queste case di solito si trovano degli alberi ed una piccola fontana in mezzo. Mentre Ramin e Paolo parlano della grande capitale iraniana, arrivano a una casa del tè. Quindi decidono di andarci a prendere una tazza di tè e continuare ancora a parlare delle attrazioni di Teheran. Amici, come compito di questa settimana, scrivete un dialogo come sopra in cui parlate con un vostro amico persiano delle attrazioni della vostra città. Inviate i vostri compiti alla pagina Il Persiano per voi su Facebook. I vostri compiti verranno certamente corretti e premiati. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questa puntata. Potete trovare il testo di questo programma sul nostro sito italian.irib.ir/radioculture. Vi ringraziamo dell'attenzione e a presto. Noi ed i radioascoltatori. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in nome di Dio il Clemente e il Misericordioso. Salve cari amici, benvenuti ad un altro appuntamento con noi ed i radioascoltatori. A tra poco. Ed eccoci insieme per cominciare un altro appuntamento con la rubrica Noi Radioascoltatori. Siamo nel secondo mese della primavera e sappiate che ormai tutti che il Capodanno in Iran proprio comincia con la primavera. Siamo nel mese iraniano Ordibehesht. Il tempo è abbastanza bello a Teheran e stiamo comunque andando verso l'estate che di solito fa troppo caldo nella capitale iraniana. Cari allora, amici, vi parla Soheil insieme aspetta, al mio collega Dawood che oggi abbiamo come la tradizione al telefono. Vi vogliamo parlare delle novità, delle iniziative diciamo prese in un certo senso dalla redazione di Radio Italia per rendere ancora più interessanti le programmazioni di Radio Italia. Nella puntata precedente Dawood vi ha spiegato che adesso lui parlerà lui stesso è più dettagliato di una partecipazione più attiva da parte dei nostri amici, dei nostri interlocutori. Una partecipazione che può essere attraverso una chiamata, una telefonata, cioè una partecipazione, una testimonianza audio, e anche come lui ha citato il caso di un per esempio qualcosa che era successo nel Bahrain, con la censura del governo, la gente mandava dal paese i file video che potevano testimoniare l'attuale situazione in quel paese. Quindi la tecnologia del network oggi è molto dipendente, veramente possiamo dire, dalla collaborazione degli utenti. Allora Davut, ti saluto. Dicevi, allora, io penso di aver potuto riassumere in un certo senso le tue dichiarazioni. Continua pure. Sì, grazie per il riassunto. Io saluto tutti gli amici, spero che si trovino bene, stiano bene. Io mi trovo ora in strada, come avrete capito dal rumore delle macchine qualche volta. Sì, stai attento, eh. Sì. E vi parlo in un momento magico, perché non so se sentite anche voi il cinguettio degli uccelli. Teheran è una città con tanto verde, con tanti alberi, fiori, aiuole, non so, ruscelli che scorrono ai bordi delle strade. E poi... hai parlato di Teheran... Volevo aggiungere anch'io questa, diciamo questa informazione, che a Teheran c'è una diciamo viale, una grande strada di nome Valiasr, che io ho sentito che forse è veramente l'unica nel suo genere, questa strada, che direttamente collega il nord della città, ormai della mega città di Teheran, al sud, cioè direttamente, forse una cosa rarissima nel suo genere. Ci sono tanti aspetti particolari di questa via che, tra quale ricordo, è anche, cioè al nord di questa via ci stanno anche i nostri studi, no? Dove certo. da ora noi parliamo. La questione è che, come tu sai, in un certo tratto della via la luce del sole di mattina filtra, perché ci sono questi grandiosi alberi così alti che poi in cima le loro fronde si riuniscono, e c'è un tetto di alberi in pratica in questa via che è anche larghissima. Un attimo, vediamo. Allora, c'era un amico che, oddio, c'era un amico che mi chiedeva di spostarmi qui, abbiamo risolto la questione molto velocemente. Allora, che in persiano hai detto io, boyad bemunam, cioè devo rimanere. Cioè, ho detto che devo rimanere, no, perché dice, scusi, lei se ne può andare così. No, so, io so, ma per amici che hanno sentito una frase persiana, cioè boyad bemunam, cioè devo rimanere, anche abbiamo fatto una piccolissima lezione di farsi. Poi, sì, dicevi... Sì, sì. Dicevo, c'è questa via, c'è questa atmosfera, e quando stavamo parlando, ora no perché è finito, c'era in lontananza anche il richiamo alla preghiera, l'azan. È una differenza questa tra le città in Iran e quelle occidentali, il fatto che a mezzogiorno preciso e al tramontare del sole e anche all'alba, nella città si sente questo canto del richiamo alla preghiera, l'azan. Allora, per quanto riguarda le nuove iniziative, ragazzi, niente, la cosa che devo aggiungere è che noi ci siamo dati, perché vabbè, abbiamo detto sì, ascoltatori, mandateci questi messaggi, i vostri numeri, così facciamo partecipare alle trasmissioni, mandateci video, le cose, vabbè. Però non è che possono fare tutti gli ascoltatori, che vita è, no? No, io sì, certo, ma una sezione, una certo. Piccola, prima all'inizio può essere piccola, ma poi una sezione precisa dedicata ai nostri amici ascoltatori. No, aspetta, un altro momento magico, aspetta. Che c'è? Qualcuno ti chiede aiuto o di spostare allora, ancora la macchina? No, momento magico, sentite, ecco, sentite questa voce di questo signore, no? Perché e è che un... dice? Vale. Perché questo è un altro mestiere antichissimo che c'è ancora in Iran e non c'è in Italia. È il mestiere del cardatore della lana. No, aspetta, non ridere. Lui, cioè... lui... Ma dai! No, no, aspetta, ecco, ecco, ecco. Dove ti trovi? Aspetta, in una via normalissima di una città, perché lui, c'è questo signore, che di solito sono signori anziani, che passano e dicono love to see, no? Certo, cioè, ma come facciamo a tradurre questo mestiere? No, aspetta, cioè... traduco io. Ti offrono di fare piumini e in pratica materassi per le case. Certo, cioè, ma loro... questo mestiere oramai anche a noi, in questi, diciamo, attualmente è rarissimo vedere qualcuno impegnato in love to see. No, è raro, però ci sono. Vedi, io c'è la prova, avete visto che è passato e gridava love to see. E secondo me a Teheran è un esemplare, dai. No, no, vabbè, sono rari ormai perché è un mestiere in via di estinzione, però è bellissimo. In via di estinzione, era bella questa. Spiegare. Ma comunque il programma live, il bello di un programma live è questo. Senti, abbiamo parlato troppo, aspetta che ascoltiamo un po' di musica, no, poi torniamo musica, a parlare. Però tu poi mi fai spiegare questo mestiere. Certo. È successo un'altra... Dawood, mi senti? Sì, sì, sì. È successo un'altra veramente cosa interessante. Mancano 3 minuti al, diciamo, al live, devo andare in onda, quindi vi lascio, cari amici, a compagnia, vi farà accompagnare Dawood e concluderà con le sue affermazioni per quanto riguarda la partecipazione dei nostri radioascoltatori. Io vi saluto, ti saluto anche Dawood, ci vediamo dopo, io devo andare in diretta. Sì, okay, sì, buona diretta. Allora, a te il microfono. Certo, certo. Io spiegavo che questo mestiere del cardatore della lana, in pratica lui si offre di fare piumini e materassi nuovi, cioè lui prende la lana, il cotone, quello allo stato grezzo, lo carda lui con questo aggeggio che porta con sé, che è una molto, molto particolare. Ed il bello è che anche se il mestiere in via di estinzione, perché magari naturalmente tutti comprano quelli nuovi, però ancora le donne anziane, soprattutto ad esempio mia nonna o quelle della sua età, cioè sono fortemente convinte del fatto che i materassi, i piumini, quelli buoni, siano proprio quelli fatti da questi signori. Per questo, quando si sposa di giovane anche qualcuno, la nonna fa fare sempre anche un set per la sposa di questi piumini, materassi, e così loro hanno anche il loro lavoro, ed è molto interessante la scena. Io, per quanto riguarda, tornando alla questione delle novità di Radio Italia, come vi sarete ve ne sarete accorti se ci seguite, oltre a ciò che abbiamo affidato a voi, abbiamo cercato di darci da fare anche noi, abbiamo iniziato con il programma della rappresentazione radiofonica che riguarda la storia dell'Islam, un programma che facciamo con la partecipazione di tanti attori radiofonici, in pratica tanti amici, colleghi, anche gente al di fuori della nostra radio. È un programma nuovissimo, la prima rappresentazione radiofonica che facciamo noi a Radio Italia IRIB. Poi le altre novità riguardano forse in un futuro i programmi della sera. Noi alla sera ci ascoltate solo mezz'ora, dalle 19:30 alle 20 di Greenwich. Stiamo da tempo, abbiamo intavolato negoziati per portare la durata del programma da mezz'ora a un'ora, speriamo di riuscirci. E ancora per quanto riguarda le novità, siamo nell'anno appunto proclamato dell'epopea politica ed economica per l'Iran, hanno anche delle elezioni. Per gli appassionati di politica iraniana cercheremo di mettere a punto anche servizi speciali, notizie dal vivo, aggiornate, cioè le più aggiornate possibili per quanto riguarda anche le elezioni che si terranno tra poco in Iran. Io direi di andare alla regia e torniamo tra qualche istante. Allora amici, siamo giunti al termine del programma di oggi, io niente, volevo solo aggiungere che si conclude anche tra non molto la stagione della primavera e ci avviciniamo alla bellissima stagione dell'estate, stagione di ferie e di vacanze, magari meno degli anni passati per via della crisi che c'è, ma in ogni caso una stagione bellissima soprattutto per i più giovani che non vanno più all'università, che non vanno più a scuola e si divertono un po' di più. Una stagione importante, come ho detto prima, quest'anno anche per l'Iran perché ci sono le elezioni presidenziali. Speriamo che sia un'estate bella, divertente, un'estate buona per tutti. Ed in conclusione vi ricordiamo l'indirizzo di Radio Italia: Islamic Republic of Iran, la Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19.395/6767, Radio Italia, Teheran, Iran, e poi la nostra email italian.irib@gmail.com. Grazie per l'attenzione, a risentirci. Grazie amici, a presto. Gentili ascoltatori, siamo in chiusura e vi ricordiamo solo alcuni dei principali titoli di oggi: Altolà di Putin a Netanyahu, al prossimo attacco di Israele alla Siria risponderà la Russia. Vi ringraziamo per l'attenzione, il prossimo appuntamento con noi è per stasera.